la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buonasera. Un periodo ho avuto una macchina molto costosa, molto bella, una Jaguar. Una? Jaguar. Avevano una particolarità, avevano un pupazzetto. Una Jaguar. Ah, che pupazzetto? Non era un pupazzetto, era un animale, un giaguaro. Animale? Era un pupazzetto. Era un giaguaro che balzava, era un giaguaro che... Ma che sta a dire? Ma allora la lancia temera, che c'ha la temera disegnata davanti? Ma che è la temera? Mica è un animale, scusi. Ma come è un animale? Lo sapete tutto voi, paura io la macchina, che lo sai? Vabbè. Questo è una macchina, io non ho mai visto un animale temera. Lo sapete tutto. No, non è che voglio sapere, è una macchina. Queste macchine, sì, essendo antiche, avevano agli interni un plasticone, una finta pelle che... A lungo andare provocavano delle ustioni, ha capito? Molto simili al mozzico del nano Moretti. Che nutrendosi di benzolo, sì, trovava tra i sedili il suo habitat. Il telefono, maestro. Naturale. Il telefono, sì. Romano, la faccia che ricorda sempre qualcuno, ma non si sa bene chi, la voce che può cambiare improvvisamente e trasformarsi in quella del grande Alberto Sordi. Max Tortora diventa famoso grazie alle sue doti di imitatore. Sarà la TV a portarlo al successo. Saranno i personaggi di Sordi, appunto, di Rispoli, di Santoro, a farlo amare dal grande pubblico. Qui, nella meravigliosa imitazione di Santoro, il giorno dopo, la storica intervista a Berlusconi. Allora, che è successo? La Costa Magna, Luisella, mi ha detto, lo mettiamo sulla gradicola, va bene? Oh, bene. Andiamo su retroscena di servizio, lei si era preparato. Tutto preparato. Certo. Questa dice, facciamo la gradicola, tutte le domande, le cose, lo inchiodiamo. Sì, e invece? Lo sa che gli ha domandato? Chi? Lo sapete che gli ha domandato? La Costa Magna, chi gli ha domandato? Do abiti! Ma no, c'ha ragione. C'ha ragione però un po'. C'ha ragione. Quell'altro, quella giovane, come si chiama? Quella, la Innocenzi. Sì. Ha fatto la Luis, ha fatto la Bocconi, cattiva. Sì. Quella sì. Tratta male tutti, pure il cane, attacca, acciacca per strada avanti a tutti. Se era preparata. Mi sono preparata, Michele, stai tranquillo, mettiamo là, lo inchiodiamo, facciamo sudare freddo a questo, no? Prepara tutto un dossier, una cosa, con la collaborazione da Bocconi, da Luis, quello e quell'altro. E poi? Sai, gli ha domandato? Che gli ha domandato? Presidente? Sì. Con quella vocetta che c'ha, no? Sì. Presidente! Presidente! E lui lì, di chi è? Come si aziona il videoregistratore, visto che lei si intende le televisioni? No, Santoro. Quello che conosciamo di Tortora sono gli ultimi 10 anni, fatti di successi televisivi e riconoscimenti. Eppure, la storia artistica di Tortora ha inizio molto tempo prima e la sua gavetta sarà, come ogni artista che si rispetti, lunga e piuttosto faticosa. Inizio a teatro avendo avuto la fortuna di conoscere tanti anni fa due pigmalioni che sono stati Pino Amendola e Nicola Pistoia, che mi hanno preso in compagnia con loro, e quindi io ho avuto la fortuna di iniziare con i teatri pieni, sempre con grandi successi, perché loro erano bravissimi, sono bravissimi, ma insomma nel periodo delle loro commedie migliori io sono entrato dentro in compagnia fisso, e quindi ho avuto la fortuna di iniziare con i successi, ecco, non ho mai visto un teatro vuoto, non so che significa. Beh, questa è una cosa meravigliosa. Eh sì, devo dire di sì. E lei quanti anni aveva quando ha debuttato? Beh, ci avrò avuto una ventisettina d'anni, perché prima erano tutte cose, diciamo, sperimentali, non professionali. Perché prima lei ha studiato, ha fatto architettura, si è laureato in architettura? Sì, e quello è un errore di percorso, un incidente, nel senso che io volevo fare il conservatorio, volevo diplomarmi in pianoforte, non sapevo proprio come si potesse fare, non conoscevo nessuno, era impossibile fare gli esami per entrare, insomma, purtroppo non sempre le attitudini bastano per fare le cose, bisogna conoscere, bisogna avere addentrature, bisogna, insomma, all'epoca entrare in conservatorio è molto difficile, adesso diciamo che essendo diventata materia universitaria è come una laurea, quindi si può entrare sostenendo un esame d'ammissione, però all'epoca era molto difficile per me. Ma lei suonava già al pianoforte? Suonavo, e oggi ho questo grandissimo rimpianto di non essere titolato, perché ho continuato a studiare conto mio, ma non è mai la stessa cosa, quindi invidio i grandi direttori d'orchestra e i grandi pianisti. Quindi lei segue anche la classica, ma ama la musica, la ascolta, la suona? Assolutamente sì. col tempo che ho a disposizione, ma insomma, ecco, ripeto, c'è questo grandissimo rimpianto di non aver potuto fare poi la carriera anche di musicista. E come mai ha scelto architettura, dal pianoforte all'architettura? Perché credevo fosse la cosa più artistica che mi restasse a disposizione, ma in realtà sbagliavo perché era molto tecnica, quindi non c'entrava niente, non c'era niente di artistico. Però è riuscito a laurearsi, quindi ha sostenuto esami anche difficili, statica piuttosto che altro. Cioè, Ho messo 10 anni. Quindi, senta, com'è la sua famiglia d'origine? La mia famiglia d'origine, mio papà era un direttore d'albergo, forse è lì che nasce la cosa dell'attore, perché un direttore d'albergo è come un attore, ha una faccia per ogni cliente, ha un comportamento per ogni cliente, affabile, deve essere simpatico per forza, e quindi ho imparato forse da lui i vari atteggiamenti. Era un uomo ben voluto, ecco, dovunque andava si spalancavano le porte, insomma era bello stargli vicino, vedere come operava, era un bel lavoro quello. E lei stava spesso con suo padre? Stavo spesso con mio padre perché a casa mi annoiavo, quindi volevo stare in compagnia, che andava a rompere le scatole mentre lavorava, poverino. Quindi... Ed era affabile suo padre anche con lei? Beh sì, perché era un uomo simpatico, un uomo divertente, poi... Secondo me c'era qualcosa di inespresso a livello attoriale che comunque portava nella vita quotidiana, perché imitava le persone, faceva la parodia di tutte le amicizie che aveva e a casa ce le rifaceva, quindi questo è. Ma lei è figlio unico? No, io ho 2 fratelli, uno di 2 anni più giovane e una femmina di 7 anni più giovane, che però ha fatto tutto ciò che non ho fatto io, perché c'ha 3 bellissime figlie, io invece sono rimasto solo. Questa è una cosa che le crea, insomma, cioè è un grosso rimpianto questo? È un grossissimo rimpianto insieme a quello del pianoforte, perché vede, quando ci accadono le cose, non abbiamo la fortuna di essere centrati e preparati, e purtroppo non ce ne accorgiamo che ci accadono. Io quando ho l'amore, di avere dei figli e una moglie, non ero pronto, non l'ho capito, quando l'ho capito era tardi e quindi... Poi mi sono mangiato i gomiti. Beh, però lei comunque è del 63, per cui insomma di possibilità ne ha ancora di creare. Io a 50 anni mi vado a mettere in estranea dentro casa. Cosa fa Sordi adesso? Beh, ma per forza, se è superato quel limite lì. E cioè, voglio dire, una moglie è una parente. Non è che io mi metto dentro un'estranea, ci faccio un figlio. Quei tempi che corrono non hanno finito. Quindi diciamo che... È un rimpianto, però di fatto ci sta bene nella vita che ha. Beh, ci sta bene per forza di cose, perché sa che c'è, che io adesso ci parlo col figlio che non mi è mai nato, perché mi piacerebbe andarci a spasso la domenica e farci delle cose, ma ripeto, se in quel momento quando ti capitano le cose non hai la grandissima fortuna di essere centrato, io mentre avevo la donna che più amato nella mia vita, credo di averglielo detto pochissimo che l'amavo, quindi bisogna essere preparati per l'amore. Perché non gliel'ha detto perché abbastanza? No, perché non mi sono reso conto bene della fortuna che avevo in quel momento, stavo sempre lì a pensare ai miei problemi, a risolvere problemi irrisolti, cioè, poi ripeto, bisogna avere la fortuna che quando capitano le cose uno è pronto, però non è mica colpa nostra, non è che dopo ci dobbiamo fare una colpa di questo, qualcuno avrà deciso così. Vado punto e a capo così, spegnerò le luci e da qui sparirai. Una storia, quella di Max Tortora, simile a quella di molti altri, con un amore grande ma non riconosciuto in tempo, dirà lui, un dolore sul quale Tortora riesce a scherzare, ma con poco brio, come in questo estratto di intervista, niente di personale. Io per esempio ho convissuto per un po' di anni. Quanti? Parecchi. Tipo? 8. 8? Sì, ah, però. 7-8. È finita malissimo, purtroppo. Non mi ha fatto cazzo d'asto perché sì. Non è no, ma tocchiamolo invece. No, no, il gofio, piace alla gente. Sto ancora soffrendo, sto ancora in fase di sofferenza. Però lo inquadriamo in primo piano che soffre. Riguardo il fatto della comunicazione, io penso che ci voglia comunque un buon ascolto, no? Siccome io sono diventato mezzo sordo perché dormo con i tappi di cera, e la mia fidanzata iniziava una frase in una stanza e la finiva in un'altra stanza. Sì. Io ho passato i primi 3 anni dalla convivenza a fare poi mi sono rotte le scatole e a 3 anni un giorno ho cominciato a fare tipo Avanoni, iniziava una frase di Avanoni, come fa Avanoni normalmente? Avanoni faceva non c'è via niente, no? Come la faceva Sabbani all'epoca, no? Sì, come no, iniziava vero. Una frase in una stanza, poi dopo un po' io facevo sì, poi quando faceva una cosa che non capivo, ma come te l'avevo detto? Chi ti ha sentito? La prima volta. Vado, non mi piace fare la spesa a me, perché io sono alto 2 metri, mi metto un fila, mi rompo nelle scatole, mi prende la pasta in alto, gioca a pallacanestro. Ah, cioè la fermano per dire? Sì, mi prende quella cosa. Sì, però, sì, la pasta sempre, sì, quella sì. Dietro. Come si sta lassù, queste battute? No, allora, lei come fa con le donne? Portami tua sorella che ti faccio vedere. Una ola. Allora io... pensando che questa cosa della pallacanestro me la sarei portata per tutta la vita, perché certo. È una tassa, io guarda, paghi, un giorno scriverò un libricino per spiegare cosa passa a uno molto alto, a parte le disgrazie, che io stavo, mi ricordo, a Maccarese, stavo a far bagno in piscina, arriva uno, si tocca, venga, questo, giù. Quello è bello, lo scherzo bellissimo che vai giù così. No, era incinta, il marito si è pure incazzato, dice, lei fai scherzi, io guardi, stavo per i cavoli miei a far bagno, questa è arrivata, che fai i conti su quanto no, ma io vedo un vecchietto, sì, ai giardinetti, dove? Che sarà stato 2 metri, ai giardini pubblici, e dico, scusi, sa, io non mi permetto perché me rompono sempre a me. Dico, le posso fare una domanda? Dico, ma lei almeno all'età sua non gli chiederanno se gioca a pallacanestro, no? Ma mi chiedono se ci giocavo, mi ha detto. Vabbè, per cui è uguale. Quindi ho capito che cambia solo il verbo. Il verbo. Quasi 2 metri di altezza, una laurea in architettura, una bella famiglia numerosa d'origine. Questa è la storia di Max Tortora, romano, primogenito con 2 fratelli minori. Cresce, Tortora, in una famiglia unita, dirà. Il padre, direttore d'albergo, gli passa la voglia di recitare. Lui, Massimo, amante dell'arte, sognerà di diventare un pianista e iscriversi al conservatorio, ma non ci riuscirà e ripiegherà sull'architettura. La sua carriera artistica inizia con le imitazioni. Lo considerano il moderno Alighiero Noschese. Ma lui, Max Tortora, non riesce a riconoscersi questo talento. Io le dico, in questa cosa mi sono sentito sempre molto sopravvalutato. Nel senso che non è che mi voglio sminuire, però l'arte di fare delle caratterizzazioni, cioè, fa parte del mestiere dell'attore. Io non ne ho mai fatto una professione, perché le imitazioni, le parodie le facevo per far ridere i colleghi dietro le quinte quando andavamo in tournée, e non ho mai pensato che un giorno mi sarei trovato nel ruolo di quello che doveva ottemperare per forza a personaggi nuovi, a nuove caricature, perché a un certo punto io mi ci sono trovato per caso. Quando mi intervistavano e dicevano che personaggi sta preparando, io dicevo, guardi, io non sto preparando niente, perché quelli che avete visto sono cose che facevo da sempre, non è che l'ho studiate. Quindi do una sopravvalutazione alla Noschese in questo senso. Sono contento, infatti, che con questo programma che fanno adesso su di Carlo Conti, dove chiunque si mette una maschera va e la fa benissimo, hanno dimostrato che bastano alcune piccole cose, un po' di studio e ci si arriva. Quindi io mi sono anche un po' ridimensionato, per fortuna. Beh, però lei, secondo me, adesso si sta svalutando, perché invece oltre all'imitazione aveva anche quella forza comica. Cioè, lei fa... Quello sì, quello non me lo posso togliere, quello sì, quello è un dono che ho, che mi piace immaginare le situazioni. Quello è un fatto autoriale, però, non è un fatto tecnico di realizzazione, di imitazione o della parodia. Quello è, io, a me mi nasce già con la situazione da fargli vivere, con la paradossalità della situazione da fargli vivere, e col tormentone dentro, e quello è un dono, sì, certo, quello è un fatto autoriale che ci ho sempre avuto fin da bambino, quando inventavo le storielle per far ridere mio fratello. E che storielle inventava da bambino? Beh, io prendevo due macchinine, le facevo scontrare, dentro le macchinine c'erano dei personaggi che parlavano, ognuno con la sua voce, ognuno diceva la sua cosa, quindi io già lì facevo nell'immediato dei dialoghi. Quindi quando poi scrivo le commedie, questa cosa mi è rimasta ancora adesso, un dono. Però ecco, l'imitazione proprio in sé per sé, l'emulazione della voce tecnicamente non è il mio forte, io non ho queste capacità, quindi a parte Sor, che era un clone, perché quello è un dono che ognuno di noi ce ne ha uno, no? Come Panariello Vazzero, c'è chi fa una, si specializza in qualcuno perché gli viene proprio dall'amore che ha per il personaggio. Certo. Nel caso mio, Sor, è un innamoramento totale. Lei Sordi l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto, sì, ci ho fatto un film come assistente operatore, mi sono fatto assumere come assistente operatore per conoscere Sordi, ed era un film che tra l'altro quasi sconosciuto, che fece pochi successo al cinema, e si chiamava Assolto per aver commesso il fatto. Sordi aveva circa 83 anni, però io realizzavo questo grandissimo sogno, ero sempre appiccicato a lui. Ma gliel'ha fatta vedere l'imitazione? Ah no, perché non lo facevo ancora, ero giovanissimo, avevo 27 anni. L'ho fatto dopo, perché dopo ho colto quel Sordi un po' anziano, che nonostante avesse fatto due sole apparizioni in televisione, di cui una ricordiamo tutti, il Tucatuca con la Carrà, invece in vecchiaia decide di sfruttare la televisione per promuovere i film e quindi fa più interviste possibili. E mi accorsi che raccontava inevitabilmente, come tutti, le stesse cose, no? Gli stessi aneddoti, quindi mi divertivo a vedere questo tormentone di Sordi che in vecchiaia improvvisamente andava dappertutto, dal TG Luna a Uno Fine, a tutti i telegiornali possibili immaginabili, nonché alle prime azioni anche di Signori, e raccontava sempre questi stessi aneddoti, tra cui quando gli facevano fare il bue un impresario americano che voleva portarlo in giro nel mondo a fare la tournée facendo il bue, e quindi lui ha queste cose divertentissime, però a ripetizione, e quindi questa cosa mi affascinava. La vita di Max Tortora non è sempre lineare, e come racconterà lui stesso, ci sono degli strappi, e forse proprio quelli lo hanno reso così interessante. Da fuori resta un gigante di 2 metri che attira l'attenzione, ma lui è riuscito a vincere la sua battaglia e a non far diventare l'altezza un problema. Guardi, la mia altezza avrebbe potuto influenzare molto la mia carriera, non ci è riuscita, perché io ho fatto un lavoro sul corpo per cui ho cercato di sviare l'attenzione da come sono a quello che faccio. Quindi è stato un lavoro certosino, però in ballo c'era il mio lavoro, nel senso che se io non ci riuscivo non avrei potuto fare questo mestiere e sarei diventato un carattere. Io ci sono riuscito, in quanto nei film non vado a fare l'altro, vado a fare me stesso. Fare il personaggio che mi danno da fare, quindi come c'è l'obeso che va a fare l'obeso, il basso va a fare il basso, io sono riuscito a non andare a fare l'alto nei film, ma mi chiamano a fare un personaggio qualsiasi, un padre di famiglia, un fratello, senza, a prescindere dal fatto che io sia alto, tant'è che non è che lo usano come gag nel cinema. Quindi è stato un lavoro duro, ma ci sono riuscito. Dal 26 dicembre Tortora è al Teatro Sala Umberto a Roma con lo spettacolo Doppia Coppia. Doppia Coppia è una commedia che io ho già fatto nel 2005, l'ho scritta insieme a Paola Tiziana Cruciani, che questa volta ne curerà anche la regia. È una commedia molto divertente che io ho fatto nel romanzone nel 2005 a Roma, e siccome l'avevano vista in pochi, perché come si sa nei teatri ci sono gli abbonati, scaduto il mese insomma in cui di programmazione si passa ad altro, quindi mi dispiaceva che l'avessero vista in poche. Allora l'ho riproposta 8 anni dopo, vista anche la scarsità di lavoro cinematografico e di fiction, dico ritorniamo al vecchio amore che è il teatro. Eccomi qua. Guardi, mi sono ispirato alla paura che ha la gente di vivere la vita quotidiana, che è la cosa più bella che possa esistere. Io amo la routine, amo la vita quotidiana, quando l'ho avuta non l'ho capita, quindi oggi la cerco, perché la routine quotidiana è sicurezza, non c'è niente di male a starsene un po' sicuri e tranquilli, sentirsi sminuiti per questo è un grosso errore. Allora ho notato che molte persone cercano chissà quali avventure senza sapere che l'avventura che stanno vivendo, che è quella della vita, è la più difficile, perché alzarsi la mattina, andare a pagare bollette, tenersi a casa la propria moglie, il proprio marito, è una delle cose più difficili che ci siano da fare nel mondo, però la gente non si rende più conto, vuole fare chissà che. Allora ho immaginato una coppia politicamente istruita che cerca di migliorarsi, ma non è in grado, e nel loro migliorarsi credono che andare a fare cose sperimentali tipo lo scambio di coppie ci si elevi, ma non sono in grado né culturalmente né scientificamente di fare una cosa del genere, e quindi si scontrano con la loro normalità, che poi decideranno e capiranno alla fine che è quella che paga più di tutte. Però è divertente perché loro cercano di elevarsi anche cambiando quartiere, vogliono andare da Torpignattara, più un quartiere di Roma periferico, vogliono andare ai Parioli pensando che questo basti per aumentare la loro... Insomma è divertente perché poi c'ho sinceramente una grande attrice vicino che è Michela Andreozzi, che secondo me è la Anna Magnani del 2000, ma non so quanti se ne sono accorti. Lei è bravissima, credo che il giorno che qualcuno individuerà il ruolo giusto da protagonista nel cinema darà molta pista a tutti, perché è una teatro, è una macchina da guerra. Lei è veramente molto generoso anche nei confronti degli altri. Beh, perché io le ho avuto la fortuna di poter sempre quasi scegliere dove e con chi lavorare, e quindi insomma i bravi attori mi hanno sempre affascinato, li trovo pieni di cosa, no? Perché l'amore per questo mestiere è un mestiere difficile questo, quindi quando trovo un bravo attore sono sempre affascinato, tant'è che ho studiato tutte le vite dei grandi attori che mi hanno affascinato, li ho approfonditi diciamo nell'intimo, volevo vedere se corrispondevano poi effettivamente a quello che io avevo letto nel loro modo di recitare, e quasi sempre ci ho preso. La prima volta termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento sempre domenica, sempre alle 13.30. Potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it, potete riascoltarci in podcast. Buona domenica da Cristina Carpinelli.